parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. What do you think about Cruciani? Brutto. Cruciani? Brutto. In Parenzo? Stronzo. Stronzo? Repeat? Stronzo. Ma invece di ascoltare quel coglione di Parenzo, non possiamo fare una gara di rutti? Per fortuna c'è Parenzo, altrimenti sarebbe delirio e ingiustizia verbale. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Lavoriamo anche oggi, amici, non siamo in ferie, non siamo male, in giro male, per male, il giubileo, male. Ma che male che sei male. Diventato, mo, tu non dovresti festeggiare l'8 dicembre, no, che cazzo c'entri tu con l'8 dicembre? Ma cazzo, un po' di ferie ma tanto. Che c'entri con l'8 dicembre? La serata dai. Con gli amici. Ah, allora, sei della tua parrocchia solo quando ti conviene, sono no, di un'altra no, no. parrocchia, io sono di un'altra parrocchia, io tu vorresti festeggiare le festività cristiane e pure quelle ebraiche, se c'è tutto insieme. Fare tutte le feste ebraiche, roba incredibile, diciamo che ne faccio solo alcune, dico che oggi è vacanza per tutti, se ne stanno noi lavoriamo, a casa. Noi lavoriamo. A te, tu dovresti fottertene di queste cose qua. Dovresti fottertene. Ma dove eri tu? Ho pagato il doppio io. Dov'eri tu? Non ce ne frega niente. Mangiare tu? Non ce ne frega niente. Il Pandoro. Ma noi amici. Vogliamo iniziare con un personaggio che sta diventando mitologico. Costui si chiama Donald Trump. Beh, ragazzi, è un idiota patentato proprio. Non è un idiota, attenzione alle parole. Non è un grossier. Traduce la parola grossier alla gente, no, al volgo. La gente non sa che cos'è grossier. E la gente no, non lo sa cos'è grossier. Sì. Cioè, veramente questo tuo grazie per avermi fatto imparare la parola irenico. Ma sai perché? Perché una volta rispetto io quando ascolto vengono nelle mie cene a casa, da persone che sanno più di me. Ma perché ti paragoni? Non ho capito, perché secondo te tu sai più degli ascoltatori? Beh, di alcuni sicuro, ma questo ci vuole poco rispetto a questi di alcuni salami, altri no, ovviamente, ma rispetto al 90% dei salami che chiamano sicuro. Ma quando io invito qualcuno di più intelligente di me, lo ascolto e dico: caspita, però ho imparato cioè, una tu cosa ti senti nuova. Più intelligente della media degli ascoltatori della zanzara, questo è il punto fondamentale. Ti il senti 90. Più intelligente 9. Del 90.9 no, no, non degli ascoltatori, di quelli che chiamano. No, ascoltatori. Hai detto ascoltatori. No, di quelli che chiamano. Del 90.9 di quelli che chiamano. 90.9. Pensate come ti messo. Comunque, l'altra parola 90. Di oggi qual è? 9. L'altra parola di oggi qual è? Grossier. Cioè, secondo te Donald Trump è un grossier. È grossier. Io lo so cosa significa, ma non ne faccio sforzo, è come un dire. Grossier. No? È un grossier. Grossolano sarebbe uno grossolano. No, di più. È volgare, diciamo. Grossier significa volgare. Grossier è volgare, esatto. Sì. Allora, ha detto una cosa. Allora, Donald Trump d'Italia, svegliatevi. Non dico che sono dell'idea di Trump. No, fondamentalmente non la penso come Trump. Però credo che un Donald Trump anche in Italia farebbe molto bene. Può essere paragonato a Salvini, però nemmeno Salvini, che ne so, la Santanchè arriva al punto. Questi qua non arrivano nemmeno loro al punto di dichiarare che vanno fermati tutti i musulmani all'ingresso delle frontiere. Cioè, non, nemmeno più un musulmano deve entrare in America, dice Trump. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives. Until our country, capito? Fino a quando non riconosciamo da dove viene un vecchio miliardario rintronato. Ma sì, vecchio rintronato, miliardario, eccentrico. Quel ciuffo straordinario. Una volta... No, si darà il ciuffo, però sì, anche quello, certo, capello col ciuffo tinto, vecchio miliardario rintronato, che va benissimo negli Stati Uniti. Però, perché... però, devo dire la verità, l'idea di bloccare l'ingresso potrebbe far presa, no? Cioè, mai, fino a quando non risa... No, lui ha detto, non succederà mai, tutti l'hanno attaccato dicendo... Appunto. Tutti l'hanno attaccato dicendo che è un pazzo. Anche i repubblicani l'hanno attaccato. Quello da matto. Però signor Trump, bloccare tutti i musulmani, cioè finché non scopriamo chi è che ha provocato l'inferno a casa nostra, lo dice, dobbiamo impedire, per evitare un nuovo 11 settembre. Ma è una roba che neanche il barone nero lì dice, ecco, forse è paragonabile. Sì, forse il barone nero lo può dire, sì, il barone nero. La differenza è che questo Trump è molto più simpatico, ha avuto, no, molto più successo nella sua vita. Un sacco di consenso, mentre il barone nero è una nullità, tu dici. Sì, è un escremento. Politicamente. Guano. No, guano. Dai, adesso pure il barone nero mi stai attaccando, guano. Dai. Ho detto guano. E stai dicendo merda che è una merda il barone nero. No, dai. Usiamo parole che guano. Per chi non lo sapesse, il signor Yonghi Lavarini è l'esponente della destra molto radicale milanese. Puro guano. Guano. Un'altra cosa che ha detto il signor Trump, questa l'aveva detta ieri, e come avete sentito non abbiamo fino adesso pronunciato la parola giubileo, perché il solo pronunciale, molto bello pronunciare oggi. La parola giubileo porta santa, mi fa orrore. Non sbaglio, solo, perché era molto bello oggi. Cioè, la quantità di inutili parole che si dicono in queste ore è incredibile. Bello, solo a te può piacere una cosa del genere. Cioè, guarda, c'è uno sbrodolare di parole, di inutili parole. Comunque, e sono orgoglioso di non aver pronunciato una parola fino adesso sul giubileo. C'è un'altra cosa che voglio dire a proposito di Trump, che oltre a proporre la chiusura delle frontiere ai musulmani in America, e io dico qualcuno dovrebbe esserci a proporre in Italia questa cosa qui, forse è troppo forte, cioè ve la fate addosso, Trump italiani, ve la fate addosso, proponetelo anche voi. Propone Trump di chiudere anche internet adesso, e chiede addirittura un incontro a Bill Gates. Questo francamente, signor Trump, mi pare un po' complicato. Chiudere internet per un po', adesso questo lo fanno in Cina, cioè lo fanno in altri paesi, lo facevano più che altro, ma non è mai riuscito tanto bene. Lo fanno in Corea del Nord, però lì c'è un signore che si chiama Kim Jong-un, là, come diavolo si chiama, con i capelli un po' simili a quelli di Trump, in effetti, no? hanno questa bizzarria, questa pazzia sui capelli, dunque qualcosa in comune magari ce l'hanno. Però chiudere internet, iniziamo con due file in inglese stasera, è incredibile. Losing a lot of people because of the internet, and we have to do something. We have to go see Bill Gates and a lot of different people that really understand what... No, dai, ci vorrebbe un Trump italiano, ragazzi. Numeri per chiamarci: 800 24 00 24, numero tradizionale per le vostre telefonate, eh? Poi c'è un altro numeretto per i vostri messaggi WhatsApp, 393 71 71 701. Allora, se la prendono gli animalisti, io non ne posso più di questi qua. Fra poco faccio un partito antianimalista, ti giuro, nel mio programma, che ci sarà della lista Zanzara nelle varie elezioni, quando decideranno di farci votare, non si sa ancora quando, ci saranno varie liste Zanzara, no? Formalmente non sponsorizzate da me, però qui daremo un appoggio, come dire, spirituale. Allora, ci sarà sicuramente qualcosa sugli animalisti, non può essere altrimenti. Se la stanno prendendo in queste ore con il signor Teo Teocoli. Ma tu lo sai perché se la stanno prendendo il signor Teo Teocoli? Non lo sai tu? Perché tu, no, ma so che cazzo ti frega? No, lo so, perché fa questo programma su Rai 3, peraltro molto divertente, dove viene chiuso dentro, esatto, una scatola. Ma conosco perfettamente il programma. Sì, ma sai che cosa è successo? Io so che ha fatto una roba con un animale, vai a esporre il dettaglio. No, non sai un cazzo, come seguito. Al solito. Però non so che nulla, fa questo programma divertente su Rai 3. Sì, vabbè, prodotto da Endemol, questo lo so. Questo che cazzo te ne frega? Che ce ne frega noi? Perché devi sempre leccare il culo ai produttori televisivi? Devi leccare il culo ai produttori televisivi? Non personalmente non ne sentiamo il bisogno. Non ho mai prodotto nulla con Endemol. Allora, signor Teo Teocoli, rinchiuso dentro una scatola, a un certo punto viene proiettato, viene spedito in un paese. Questo è il gioco, no? Vabbè. Format americano, vabbè, viene spedito in un paese, in questo caso in Spagna, dove c'è la corrida, e si mette e lui a parlare. Non sa di finire lì. Ma sì, vabbè, non lo sa, quello che ci racconterà noi. Cioè, non lo sa, vabbè, diciamo che non lo sa. Va lì in Spagna, vabbè, ma che c'era? Sta ruba a casa dei ladri, sul serio. Allora, non lo sa. Sì, non lo sa, certo. Va lì e parla di corrida. Allora, questi qua se la prendono perché non paghi del fatto che lui dice io sono contrario alla corrida, alla morte dell'animale. Però va lì e parla della corrida come una cosa tradizionale, cioè spiega in cosa consiste la corrida. Sì, no, ma io sono a favore della corrida, ovviamente. Questi se la pigliano, ce lo massacrano dicendo tempestate la pagina di Teo Teocoli, distruggetelo, eccetera, eccetera. perché a un certo punto parla con il torero. Parla con il torero. Imagínate el toro en la plaza, que es un animal muchísimo más fuerte que nosotros, que su adrenalina es todavía mayor, no siente dolor, siente cuando dolor. Está en la plaza. Teo, el toreo no es una lucha entre el hombre y el animal, sí. El toreo es una unión entre el hombre y el animal. Ser cioè lui dice il torero, è un'unione tra l'uomo e l'animale, non è una lotta, adesso questa è pura filosofia. Teocoli dice anche: posso capire ci sia qualcosa di divino. Posso anche capire che è una tradizione centenaria, forse millenaria, per chi lo fa è una sacralità, è qualcosa di forse di divino. Ah ragazzi, ragazzi, che dobbiamo sopportare, cosa dobbiamo sopportare? Lo sai che io ho in testa da ieri sera l'ascoltatore che ha chiamato, che è la cosa più interessante, altro che giubileo, cioè l'ascoltatore ieri che ha chiamato da Lugano, Giacomo, fidanzato con una prostituta di un bordello svizzero, esattamente del Globe. Cioè da ieri sera che mi domando e domando a tutti, ma secondo voi è possibile che uno si fidanzi con una prostituta di un bordello e riesca a sopportare in realtà il fatto che questa faccia la prostituta? Cioè ci si può fidanzare, in realtà c'è tutta una tradizione, come sapete, no? Nel film, come si chiama, quello con... quello famosissimo, come si chiama quel film? Quale? Penso, dai, tu che conosci tutti i film, adesso me l'hanno scritto film? Ieri io c'ho l'atelosclerosi galoppante, il film quello Pretty con Pretty Woman, esatto, bravo, ah, vabbè, con Richard Gere, certo, non mi pare la stessa cosa, e Julia Roberts, però esatto, insomma, bravo. Giacomo citazione da Lugano. Grossier, io voglio fare, ma che film Grossier, ma quando film mai, ma sei film impazzito, film abbastanza divertente però è popolare, dai, ma che vuol dire popolare, cioè filmetto, un film straordinario, sei pazzo, bello per voi che sono il cinema, lo vivete così come una roba, dai. Robetta, dai, non è un film complicato. Giacomo da Lugano, sono fidanzato con una ragazza del Globe. Lugano da Giacomo. Ciao, guarda, volevo dire una cosa, volevo dire che ho sentito che eri stato al Globe un paio di settimane fa in Schwarzenbach, vicino a Zurigo. Sì, sì, allora? Allora raccontarti che io sono fidanzato con una ragazza che lavora al Globe. Come si chiama questa signorina? Si chiama, il nome d'arte è Julie. Poi quello vero non posso darlo. La signora Julie, di che nazionalità? Tedesca, ovviamente tedesca. Mi tedesca, tedesca. La signora Julie, che è bionda alta? Signora Julie. Bionda alta, 1,75 m, naturalmente infisicata. Il resto della storia in seguito. Traffico veicolare. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Zanzara. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. If you start to feel like there's no time to waste, baby, try to let go. Allora Parenzo, tu non lo sai, ma il nostro comune amico Don Paolo Farinella ne ha combinata un'altra, il signor Farinella, il prete di Genova. Ma non era a Roma oggi? No, ma giubileo? Che a Roma se ne fotte del giubileo, giustamente, no, Don Fiule se si mischia a quella gente che va al giubileo a vedere l'apertura della Porta Santa. Se non fa quello, Farinella che fa? No, però ne ha combinato un'altra delle sue, perché ha detto che lui, schifato da Salvini e dalla Gelmini che sono andati, no, a protestare in quella scuola, addirittura la Gelmini che canta Tu scendi dalle stelle, fa Salvini, ridere, eccetera eccetera, per quello che non voleva fare il presepe, poi non era vero, nella scuola. Cosa ha detto? Ha detto che lui non farà il presepe nella sua chiesa quest'anno. Vabbè, cioè se ne sbatte, no, i coglioni in maniera totale del presepe. Secondo me non per Salvini, perché una ripicca mi sembra inutile. Però vediamo un po' se risponde in questa sua maledetta chiesa di là vicino Genova, dov'è? Don Paolo? Chi parla? Sono Cruciani, ciao, come stai? Ehi, ciao, bene. Senti, è successo un casino perché hai detto che non fai il presepe nella tua chiesa, che è successo? No, non è successo un casino, semplicemente che non faccio il presepe perché il presepe non mi piace, insomma, poi non voglio essere in compagnia della Gelmini o di Salvini a cantare Tu scendi dalle stelle, che è con tutto il contrario di quello che il presepe dovrebbe significare, capisci? Vabbè, però uno non è che non fa il presepe per contro Gelmini o contro Salvini, che c'entra? No, assolutamente non c'entra, dico che quest'anno mi è capitato questo, ma io da diversi anni non faccio il presepio. Cioè un anno ci ho messo per esempio tre bambini o cinque, mi pare, tutti di colore diverso, un parto gemellare, plurigemellare della Madonna. Quest'anno non l'abbiamo fatto. Sì, però tu dici non lo faccio perché ormai è diventato il simbolo di una favola, capito? È il simbolo di una favola, non è che sono contro questo o quello, non me ne frega un cazzo, però nello stesso tempo mi dà fastidio che come Salvini porti per esempio come simbolo di civiltà, che è una cosa obbrobriosa, insomma. Per cui per questo non fai il presepe. E quelli della tua chiesa che dicono? No, ma ne abbiamo parlato, perché la mia gente ormai è su un altro piano. Queste sono cazzate, cioè queste sono favolette per bambini. Sì, cioè il presepe è una favoletta. Il presepe è una favoletta. Come oggi, come viene vissuta, come fate, capisci? Ci sono anche le occhette, ci sono anche i mestieri, c'è anche il formaggiaio, ma va a quel paese, ma... Cioè tu no, poi in realtà non ci credi molto nemmeno alle presepe, cioè come... No, non ci credo proprio, nel senso che è diventato San Francesco quando l'ha fatto nel 1225, voleva dire proprio l'estrema povertà e tutte queste cose qui. Poi oggi non è più questo, è semplicemente una ninna d'anna per togliersi così lo sfizio di... Ma la Gelmini che canta Tu scendi dalle stelle ti fa schifo, cioè... Ah certo, figurati quella che è sempre andata con Berlusconi, con il gran porco di Berlusconi, poi mi va a cantare Tu scendi dalle... Ma poi ha rovinato la scuola, capisci? Cioè, ma che significa andata sempre con Berlusconi? Vabbè, significa che senza Berlusconi lei sarebbe stata la nullità assoluta, che si faccia infibulare, insomma, non che vada a cantare Tu scendi dalle stelle. Comunque, Don Farina, sta succedendo un casino, tutti ti stanno criticando, Don Paolo. Ma sì, vabbè, che facciano quello del cazzo che voglia. Insomma, siamo ancora in questo residuo di Repubblica, c'è la libertà di ognuno faccia quello che vuole. Io no? Trovo anche ridicolo, Don Paolo, quello che sta succedendo col Giubileo, tutta questa enfasi. Dai. Alla mia gente ho detto, guardate che il Giubileo non è come prendere i punti al supermercato e poi alla fine, quando ne hai raggiunto 3.000, ti vai a prendere la padella o la pentola. Ma scusa, ma non è stato anche sbagliato farne uno straordinario? Che esigenza si sentiva di fare sto Giubileo? Cioè dai, è un po' esibizionismo sto Giubileo, non c'è niente. Sì, è una forma, così uno va lì, si lava i peccati, si sistema. No, ma anche il fatto di averlo proclamato esibizionismo da parte del Papa, dai. Su, cioè, non... Sì, doveva, si trova in una situazione molto molto complicata. Cioè, lo ha fatto per motivi interni. Per motivi interni, secondo me lo ha fatto di equilibri interni, di equilibri, così, dimostrando che tutta sta gente va a Roma, che ci tiene, eccetera, eccetera. Dite, vedete che il popolo è con me. Sì, sì. Quindi sì. Non potete criticarmi, capito? Sì, sì, no, ho capito. Un motivo interno di rafforzamento, per rafforzarsi l'ha fatto, per rafforzarsi. Va bene, ciao Don Paolo, ciao. Allora, io ho contato, non me ne frega un cazzo, sono solo cazzate come è diventato oggi il presepe, questo è un prete, la Gelmini si faccia infibulare. Ma terribile, questo si è terribile. Si faccia infibulare. Questo è vergognoso. E poi lui ha fatto un presepe con un parto plurigemellare della Madonna con tutti i neri là. Mamma, non è più un prete questo qui, dai, fermatelo. Non me ne frega un cazzo. Il signor Don Farinella. Ma no, togli il Don Farinella, basta, dai. Non me ne frega un cazzo. Alessandro, provincia di Lucca. Vai Alessandro, vai. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Ho una domanda, vorrei riallacciarmi al ragazzo che va con quella prostituta lì. Sì. È la notizia del giorno, diciamo la verità, quale Giubileo. Ma la grande cosa che appassiona voi della Zanzara non è l'apertura della Porta Santa, è capire i dettagli di questa grande storia. C'è quel signore, quel ragazzo da Lugano, che si è fidanzato con la principale prostituta di uno dei principali bordelli di Zurigo, anzi forse del più interessante bordello di Zurigo, addirittura della Svizzera. Cioè, com'è possibile una cosa di questo tipo? Alessandro, dimmi. No, ma io volevo fare una domanda anche a Parenzo. Cioè, secondo lui, due finocchi sono normali e questa persona qui che va con, che è fidanzata con questa ragazza qui, c'è qualcosa che non... No, però scusami, sì, Parenzo, tu ieri hai detto che hai detto una cosa... No, mi fa sorridere che uno... Che consideriamo normale una cosa del genere. Sì, poi dopo la normalità, ognuno non fa male a nessuno, quindi chi se ne frega, però non dimmi che è normale il fatto di sapere che la tua fidanzata intanto fa per lavoro quel bestiere lì, però per carità, cioè, non dobbiamo far passare questo per una cosa normale, non, ma non credo che lo sia nel paese, quello che chiami tu Alessandro, reale, che dici? Roba così. Ma io dico, allora, cioè... ci deve essere una linea comune, cioè, se sono normali due finocchi per Parenzo. Vabbè, adesso queste sono due cose diverse. Queste sono due cose diverse. Ma più normale una persona fidanzata con una prostituta piuttosto che due omosessuali. Se a lei piace che la sua fidanzata, la sua in questo faccia caso la Alessandro, faccia la prostituta. Non sarò mica io a dirle nulla. Ma se è contento lei, ma chi se ne frega? Benissimo. Fermo lì. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Camionisti, ascoltate La Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. All good men at number 10, everything's understood. Don't you worry, I'm all right, Jack, we never had it so good. E nel giorno dell'apertura del giubileo, caro Parenzo, noi nella rubrica Tipi da Zanzara mandiamo in onda il riassunto di Giacomo da Lugano. Tipi da Zanzara. Lugano da Giacomo. Ciao, guarda, volevo dire una cosa, volevo dire che ho sentito che eri stato al Globe un paio di settimane fa in Schwerzenbach, vicino a Zurigo. Sì, sì, allora? Allora raccontarti che io sono fidanzato con una ragazza che lavora al Globe. Come si chiama questa signorina? Si chiama, nome d'arte, Julie. Poi come vero non posso darlo. La signora Julie, la signora, di che nazionalità? Tedesca, ovviamente tedesca. Tedesca. La signora Julie, che è bionda alta? La signora Julie. Bionda alta, 1,75 m, è naturalmente infisicata. Questa qua è la più bella di tutte che c'è al Globe. Infatti, arrivò nel 2013, arrivò seconda. Scusa, però adesso la curiosità, seconda in che cosa? Calo. Spiegami. Allora, perché ogni anno fanno per la festa di Capodanno il Mrs. Globe, cioè quella che vince la troia più votata. Sì, la troia più votata. Ah, che sarebbe sempre la sua fidanzata, poi peraltro. Vabbè, ho capito, ragazzo mio, cosa devo dire? No, perché galà. Io sono a favore. Lei è fidanzato e lo rivendica anche con una troia. Dopodiché, ma guardi, non voglio passare per bacchettone perché a me non frega niente. Se lei è no, ma davvero, veramente. Ecco, non dire che è normale, vuol dire dire che è normale. Se giusto? Per lei è normale. No, non è normale. Essere fidanzato con uno che lei definisce una troia. Io ho aperto la modernità e non faccio discuto di niente. Se lo ritiene normale, però. C'è una piccolissima percentuale di bacchettoni fatta dal sottoscritto 0,01%. Non ho detto che è normale. Non dovrebbe essere fidanzato con una troia. Il fatto che questa qua sia stata due minuti prima con un tizio, magari un ciccione enorme, e lei debba fare di tutto così, non ti fa schifo la cosa? Ma no, poi c'è, comunque non la vedo mai il giorno stesso che ha finito di lavorare, ci vediamo qualche giorno dopo, quando abbiamo i weekend lunghi insieme, così. Ci sono passato sopra, non è che si pensa. Non te ne frega niente. Ma non te ne... sono contento così, scopo una gran figa gratis, mi paghi i conti fuori, mi regala delle cose allucinanti. No, ma scusa, bene, però adesso così. La cosa non ho capito. Cioè, ti paga anche delle robe questa qua. Ma no, ho capito, ma guadagna tre volte più di me, guadagna. Quanto guadagna lei? Quanto guadagna lei? 20-25 mila franchi al mese. 20-25 mila franchi al mese, sì. Però sarebbero più o meno 20-25 mila euro, diciamo. 20, vabbè. Sì, sono 20 mila euro al mese. Quindi sono 200 mese. Più tutti i regalini che i vari sciurotti le fanno, tipo orologi in oro. Ma lei fa la prostituta pure fuori dal bordello? No, perché non possono. Quelle che lavorano al Globo non possono farlo. Tipi da zanzara. E vabbè, che vuoi fare? Se la vi. Se la vi, come si dice. No, c'è anche questo. C'è, no? Anche benissimo. No? Nella, certo, grande, sì, nella grande baraonda di questa trasmissione, non solo di questa trasmissione, nella vita di tutti i giorni c'è anche questo, caro Parenzo. Non c'è dubbio. Non si può rifiutare, no? Cioè, non si può respingere. C'è anche una che si è convertita all'Islam, una tale Chiara convertita all'Islam, intervistata da Mattino 5, che poi successivamente, se non sbaglio, è stata ingabbiata. Comunque fermata dalla polizia, indagata, credo ingabbiata. Uno va a Mattino 5 in televisione. A me tutto mi pare molto strano. È vero che questi qua, c'è anche il caso di una. Il matto è matto comunque. Sì, il matto è matto, però tu vai in televisione, praticamente fai l'elogio della strage di Parigi dicendo che sei matto, infatti. Sì, però non puoi non sapere il pericolo che corri, no? Cioè, ma vai tecnicamente là. Anche Mauro da Mantova è un matto, eppure nessuno lo ferma. Ma no, ma continua. Non c'entra niente, però non è che. No, ma quello continua a intervenire in trasmissione e a dire delle cose deliranti. Non rivendicare delle stragi, però dice delle cose, esatto, deliranti. Esatto, però tu ma sai qual è. Ma non fa niente, gli fanno pat pat sulla, sì, testa. Ma sai qual è il clima, no? Sai qual è che va in televisione a Mattino 5 a dire che. Comunque, perché sentiamo, è matta? Sentiamo. Tutto questo che sta succedendo ora in Francia soprattutto, perché se la sono cercata. Tu sei italiana? Sì, sono italiana, mi chiamo Chiara. Ti sei convertita all'Islam? 8 anni, bruciando il Corano, prendendo in giro nostro profeta Muhammad, se la sono cercata. Le religioni non si toccano, offendendo il nostro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ci stai toccando. Questa è matta, perché chiaramente già uno è matto se si converte all'Islam in Italia. Già sei matto, dai. Ma no, se tu sei italiano dire, e ti converti, sei matto. Ma io conosco delle persone. Il mio amico Pietrangelo Buttafuoco si è convertito. Infatti, secondo me, ma c'è qualcosa matto, che non funziona. Sarà è un intellettuale. Che ha una sua visione della, senti, vita. C'è molto esibizionismo in questo. Ma a un certo punto ti prende. A un certo punto ti parte la vena e ti converti all'Islam. Ma non mi puoi dire che c'è della normalità. Dai, su. Ma non ho capito perché. Dai, su. Di Cristiano Allam è normale che si è convertito dall'Islam e diventato cristiano. Beh, qualcuno ha delle cose da ridire pure su Magdi Cristiano, sì, però Allam. Nessuno osa dire di lui che è matto, giustamente. In pubblico no, No, capito, però è uno che ha abbracciato un'altra fede, ragazzi, e si è convertito. Su, non si può dire che è quelli. È stato per anni islamico ed è diventato Magdi e addirittura Cristiano Allam. Quindi vabbè, che è normale. C'è? Vabbè, se per te oggi nel 2015 uno ma che uno si converte, ma certo, la gente torna alle religioni, che vive in questo mondo, in Occidente, a un certo punto dice che il suo Dio è Allah, ma Muhammad, cioè, non è normale, cazzo. No, lo fai passare come una cosa normale, non è normale. È una cosa che succede, certo. Elisabetta dalla provincia di Campobasso, dai, su. Salve, buonasera. Dimmi Elisabetta, dimmi. Mi volevo riallacciare all'intervista di Don Paolo per, sì, il presepe, sì, che per lui è una favola. Sì. Mi sono sentita come cristiana offesa, ma certo, certo, oltraggiata. Vabbè, faccia una protesta al vescovo di Genova, che ma ne che so. Lui potesse protestare contro chi, ma non contro il presepe. Ci sono modi e modi per protestare contro il vescovo. Ma se lui vuole dire un'altra cosa, lui pensa che il presepe ormai sia diventato una cosa buffonesca, una roba, una favoletta che non ha niente di religioso. E in questo ha ragione al 100%. Ma io non ha torto, ha ragione al 100%. Non la penso così, no. Perché nelle nostre case da quel dì il presepe è sempre stato presepe, per chi è cristiano, rappresenta la cristianità. Ma certo, che poi si vogliano mettere i mulini a vento, che poi si vogliano mettere i vabbè, che vogliamo fare? Lo vogliamo cacciare come prete? Cioè, lo vogliamo prendere a pedate nel sedere? No, che lui facesse ognuno la propria libertà, però certamente non mi sono sentita rappresentata da un prete. Vabbè, lei non si è sentita rappresentata, ce ne faremo una ragione. Ma tu non hai mai fatto il presepe a casa tua, ad esempio? Ma sì, l'ho fatto, ma quando ancora il. Io no, perché ad esempio ma sono di un'altra parrocchia. L'ho fatto, ma è effettivamente ormai è un gioco, dai. Ma su, per tua figlia non l'hai mai fatto? No, io personalmente non l'ho fatto. Neanche l'albero per tua figlia mai sì, fatto? Sì, l'albero, sì, l'albero che ecco, allora, l'albero di Natale è una cosa pagana, una cosa che non ha nulla a che fare con la religione. Cosa hai fatto, insomma, ma sì, l'albero perché è divertente, le palle, l'albero. Perché a partire dalla tua tradizione non ti devi vergognare, va benissimo. Io con i miei figli faccio altre cose che appartengono alla mia tradizione, non c'è quella di cui vergognarsi. In questi giorni sto accendendo le candeline di Hanukkah, che è la festa. Che? Di Hanukkah si chiama. Mamma una festa mia. Meravigliosa che dura sette Hanukkah. Giorni. Si accendono delle candele ogni sì. giorno per ricordare un miracolo che non ti sto a raccontare perché è troppo lungo. No, per carità. E non ti interessa. E quindi ogni giorno zero. Con i miei figli faccio un regalo. Si usa fare un regalo al giorno ai bambini per sì. questa festa e sì. mangiare dei dolcetti. Si spendono un sacco di soldi in questa festa. Insomma, perché tu non fai mai regali per Natale, sì, farai no, dei regali. Un regalo al giorno. Un roba, regalino roba simbolico, la salasso, piccolo. Roba da salasso. Ma vabbè, comunque, la bambini, ragazza di prima, la signora di prima convertita italiana, quella mezza matta, è accusata di propaganda di idee fondate sulla discriminazione, l'odio razziale, etnica e religiosa e non è stata arrestata. Comunque ti dico una cosa, Parenzo, che anche queste cose qui, per cui uno va in televisione, dice una cazzata e viene indagato per odio razziale, etnico e religioso, sensibili su quel tema, ma è una minchiata colossale. Noi pensiamo di difenderci mettendo in galera o addirittura incriminando delle persone che oggettivamente non sono pericolose. Però mettiamoci d'accordo, perché i vostri amici, i tuoi amici, no, amici di miei, Salvini, no, io non sono amico di nessuno. Della Le Pen, io non sono amico di nessuno. Questi qua della destra, sì, vorrebbero mettere in galera queste persone, io no. Qua ti io dicono, no, attenti, no, no, io no. Attenti. Ma infatti io sono contrario. Io sono contrario perché diciamo cioè la verità. In Francia, Hollande, che non è certo di destra, ha fatto una legge sì. per cui ti possono addirittura ritirare la cittadinanza. Guarda, della quello dopo, ovviamente dopo gli attentati, perché c'è questa fobia adesso. Sì, ma no? Basta che tu dica boh, però il Patriot Act sbagliato, americano. Sbagliato, sbagliato. Il Patriot Act americano invece dopo l'11 settembre era sbagliatissimo. Era molto più duro di questa roba qua. Una cosa, ti dico una cosa, c'è il caso di una signora di Bolzano, islamica, convertita anche questa, siamo sempre nel campo della follia, la quale ha detto delle cose, è stata cacciata in Romania, è romena questa qua, e in Romania dicono vabbè ma tu in realtà non hai fatto niente, dunque libera, diciamo, è stata cacciata dall'Italia, è andata in Romania libera, è tornata a Innsbruck, cioè due passi da noi, sempre Unione Europea, Austria, e lì la polizia dice vabbè speriamo che ti vada bene il processo in Italia. Cioè questa qua sostanzialmente ha detto delle cose sull'Islam, predicazione di odio razziale secondo l'accusa in Italia, in realtà è libera di fare quello che vuole in Austria, anche di dire le stesse cose, a proposito l'Unione Europea, no? L'Unione Europea, e sta aspettando di risolvere i suoi problemi con i giudici in Italia. Ma questa qua non ha fatto nulla, ha detto delle cose estreme, ma quando uno dice delle cose estreme chi se ne frega, bisogna lasciare che queste persone dicano quello che pensano. Noi facciamo bene a riportare, ovviamente. Beh, in Inghilterra l'hanno fatto a lungo, adesso si sono pentiti di questa roba. Va bene, roba, dove andiamo? Mauro, provincia di Fermo, vai Mauro. Buonasera. Dimmi, dimmi. Buonasera, signor Cruciani. Io mi riferivo prima al Trump, e sono molto favorevole per quanto riguarda la selezione degli islamici che rientrano in America. Signor Trump, signor Trump. Cioè Mauro, dobbiamo fermare tutti i musulmani? No, tutti no, in parte vanno controllati. Vabbè, per che controllati quelli diciamo un po' più violenti da quelli un po' più moderati. Vabbè, ma questa è una cosa scontata, questa è scontata. Al prete, questa è una piccola parentesi, al prete di prima, quel prete lì che esempio dà? Che esempio dà fare i presepi per le scuole o per le chiese? Una volta quando andavo a scuola io, nell'ora di religione, questa è una cosa che non è stata mai detta, i bambini di altre religioni gli si faceva una stanza apposta per farli rimanere lì quell'ora affinché spiegavano la religione. Oppure il giorno che fa il presepio non li dovrebbero mandare a scuola. Vabbè Mauro, aspetta un attimo, fermo lì. Fatti bravi. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle. Spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai senza pena, per la rabbia, per quest'asso. Allora, Allora, nei giorni scorsi c'è stata questa vicenda incredibile dell'inchino a Paternò, no? Di un di quelli che facevano la processione per Santa Barbara. Beh, questa cosa medievale, già le processioni, è vergognoso, ma le processioni, ma lasciamo perdere, non voglio tornare sulle processioni, su cosa sono oggi le processioni, su come vengono gestite nei paesi, soprattutto in Sicilia, ma non solo in Sicilia, anche in Calabria, in particolare al sud. Allora, la famiglia che governa Paternò, chiamiamo così, insomma, che domina dal punto di vista mafioso Paternò, si chiama Assinnata. Adesso tu dirai, non mettiamoci contro pure i mafiosi, però in realtà qualche parolina bisogna dirla, no? Questo signor Assinnata, cioè che sarebbe quello, il figlio, diciamo, del boss, boss credo in galera, anzi sì, mi confermo, no, boss in galera. Signor sono Assinnata. I simpatici parenti che tengono viva la memoria, esatto, del, cioè, del arriva signore, questo, diciamo, questo carrettino con sopra il santo, no? Fa l'inchino e il figlio del boss esce dalla casa e va ad omaggiare questi signori, insomma il santo, ovviamente contento di questo inchino. Ragazzi, erano d'accordo prima, mi pare piuttosto evidente. Se non erano d'accordo prima, insomma, più o meno c'è una forma di rispetto nei confronti dei signori Assinnata, che non è una famiglia di benefattori, diciamo. Sì, forse per qualcuno sì, benefattori. Beh, sì, per quelli che lavorano con loro, sì, esatto. Sono una famiglia di gente, insomma. Anzi, forse questo è proprio il problema. Sì, che sono benefattori loro e, no, e lo Stato non fa nulla, forse questo è il problema. Sì, sì, l'alternativa non è però la mafia o lo Stato, attenzione. No, purtroppo lì, ho capito, questi qui magari lavorano col mafiosetti perché non c'hanno non è che il lavoro lo deve dare lo Stato. Per carità, certo. Allora, questo signore Assinnata, pizzicato dalle Iene, ci racconta la sua favoletta sull'inchino. Signor Assinnata. La cosa che ha fatto più scalpore è che tu invece sei sceso. È segno di educazione questo qua. Non è giusto, certo, approfittarsene delle spindole delle persone. Tuo padre se l'è cercata, o sbaglio? No. No. Mio papà l'hanno infamato. Mio papà è innocente. È innocente. Tuo nonno? L'hanno arrestato di nuovo per una cosa di 16 o 20 anni fa. Vi rispettano perché vi cognano. Ma noi ci rispettano per le persone che siamo, perché ci facciamo volere bene da tutti. Punto. Ma un po' di mentalità mafiosa ce l'hai dentro o no? Io no, signor lavoratore. No, la cosa bella è che poi le Iene li pigliano per il culo mettendo sotto la musica del Padrino. Direi, sì. I signori Assinnata non saranno molto contenti. No. No. Io mi scuso con Santa Barbara e con tutto il paese di Paternò, perché noi non siamo quelli che dicono loro. Come voi non siete mafiosi. No, se siamo mafiosi, se non siamo mafiosi sappiamo noi, non c'è niente da dire. Beh, c'è anche una cosa che è la legge, c'è però. Anche la magistratura. Esatto, c'è una cosa che la legge decide se uno è mafioso o no. Poi naturalmente la legge può sbagliare ogni tanto, i giudici possono sbagliare. Ma cosa bella è che non neanche l'imprudenza, ormai lo decidiamo noi se siamo mafiosi. Cioè non lo negano neanche, almeno un criminale normale. Non funziona così, caro Assinnata, adesso io mi rivolgo a te come una persona che può capire. Non è che lo decidiamo. Assinnata sarebbe senza senno. Può darsi anche che il significato sia questo, Assinnata. Sarebbe anche, come dire, comprensibile in questo caso, E l'inchino viene fatto per portare rispetto alla famiglia mafiosa. Ma l'inchino e le varette lo fanno a tutti, non solo qua. Cioè, quindi l'hanno fatto a tutte le famiglie? Tutti i famigli Paternò, a tutti ci piacciono l'inchino. Solo qua hanno fatto queste porcherie. Se ci facevano vedere a chi ha pubblicato questa cosa, l'inchino, non succedeva niente. L'avete fatto voi il video? Noi l'abbiamo fatto. L'ha fatto mio fratello e tutti gli altri quelli che erano qua. Beh, l'inchino adesso non è che si faccia a tutte le famiglie di Paternò. Una volta che hanno denunciato perché chiedevi il pizzo delle feste dei licei. È vera sta cosa? Mi hanno denunciato infamamente. Ma non ero solo io, eravamo qualche dececarosi. Ma come no, pizzo, ci siamo pure per i biglietti, se ne facevano traseri. Anche se uno ha sbagliato a dire qualche cosa, non l'ha fatto per male o per far intimorire a qualcuno. L'ha fatto ingenuamente. Fa molto ridere che uno chiede il pizzo alle feste del liceo. Ma se vuole ridere, ride. Perché a me soldi non me l'hanno dati. Tra sera a festa non c'è sì. Poi se facevo una cosa di questa non mi arrestavano subito. Infatti siamo a causa. E poi saluta il padre e il nonno in carcere, tutta la sezione del carcere. Mi saluta tuo padre? Eh sì, mentre che siamo andati alla televisione. Ma ciao papà, non vedi che fanno? Sono così ingiuste. Io l'ho fatto sapere a tutto il mondo quello che hanno combinato. Anche per te. Ti mando un bacio a te e a tutti quelli che sono con te, tutta la sezione. Saluto a mio nonno e i miei cugini, a mio patroccio, a tutti quanti. Vi mando a tutti un bacione. Saluta tutti in galera. Tutta la famiglia già. Credo che si riferisca a tutta la famiglia in galera. cosa pazzesca, dai. Va bene ragazzi, andiamo. Giovanni da Catania, vai Giovanni. Per quello che ho sentito sono davvero indignato. Vabbè, aspetta, perché... però fammi sentire, facci sentire anche a noi, perché sei viva voce con l'auricolare. Quello, no, no, assolutamente no. Dimmi Giovanni. Dicevo che sono indignato per quello che sento. Ah, perché Paternò è vicino Catania, sì, è vero. Perché è molto molto molto vicino, e credo che comunque questo non sia un segno di rispetto verso il mafioso, sia soltanto un senso di sfida verso le istituzioni. Vabbè, poi? Non esiste. Io invece volevo parlare di una cosa molto carina, dell'onorevole Genovese. Non so sì, se Genovese che sentito. È passato a Forza Italia dal Partito Democratico, sì, Franco Antonio Genovese. Per ripicca, pare, per ripicca, perché il PD lo aveva fatto arrestare. Non l'ha protetto, non l'ha salvato. Me ne confronti di chi la ripicca? Ma chi, che cazzo ne so, chiedilo a Genovese. Che cazzo, ma voglio dire, ma è uno schifo, cioè questo significa pretendere, tu vai a votare una persona perché difenda i tuoi principi, e poi sì, possibilmente sì. dopo 2 anni non è il primo caso tempo. Non è il primo ma caso come sai bisogna cercare di fare immediatamente una legislazione che eviti assolutamente questo tipo di porcheria. Non si può fare, amico mio, non si può fare, perché non fare? Puoi impedire a uno di cambiare partito, non puoi perché impedire a un politico. Sì, ma io sono posso anche essere d'accordo con te. Pare che ci siano in Parlamento, ho letto ieri sui giornali, una ventina di gruppi politici nuovi che non fanno gruppi parlamentari, per fortuna, e che non c'entrano niente con le elezioni. Purtroppo è un'abitudine italiana questa qua di scindersi, di fare piccoli gruppi, spesso per motivi di quattrini, spessissimo per motivi di quattrini e di riposizionamento. Certo, il caso di questo tizio che è stato in galera e adesso è passato con Forza Italia dal Partito Democratico è abbastanza incredibile. Però insomma, alla fine lui dice: sono stato tradito dal Partito Democratico e passo a Forza Italia, no Giovanni? Così ha tradito, ma così ha tradito tutti i suoi elettori che hanno votato per una lista elettorale. Il punto fondamentale è che questo qua poi pare che porti un sacco di voti. Cioè certo, perché è un capogruppo, è un leader. No, ma al di là di questo, bello, capogruppo leader, farà il buono e il cattivo tempo dove va lui. Infatti Crisafulli, che è un altro che porta un sacco di voti al PD, dice che fu un errore trattarlo come è stato trattato. Vabbè Giovanni, ciao. Paolo da Roma, vai. Ciao. Poi Massimiliano, Luciano, Paolo, dimmi. Ciao Parenzo. Ciao. Dimmi Paolo. Senti, ti ho chiamato per un'altra cosa in realtà. Vai, dimmi. Mi pare che 3 giorni fa sì. C'è stato un gruppo Facebook, Welcome to Favelas, che è un gruppo, diciamo... Sì. Che di solito mette cose un po' particolari, e hanno fatto un gruppo segreto sì. Dove sono arrivati ad avere 100.000 iscritti in questo gruppo sì. E questa volta, chiuso ieri praticamente sì. È stato bannato ieri, hanno messo praticamente dei numeri di cellulari dei personaggi noti sì lo so tra cui quello del direttore Fede sì lo so assolutamente. Che è stato bombardato di telefonate in questi giorni. So tutto. Oltre 1700 telefonate. Mamma mia. 3000-4000 telefonate. Addirittura 3000-4000 telefonate. Sì. Io l'ho chiamato anch'io stamattina. In realtà, all'inizio si è un po' incazzato, le solite cose, poi si è tranquillizzato. No, ma ha fatto una denuncia, Fede. Magari dopo lo chiamiamo, perché Fede è stato praticamente stalkerizzato negli ultimi giorni da alcuni tizi che hanno messo il numero di telefono su un gruppo Facebook, il suo numero di telefono, e ha ricevuto circa, io sapevo 2000, poi tu adesso mi dici 3-4000. Telefonate. Ma da quello che mi ha detto lui stamattina. Alcuni di questi mi hanno contattato dicendo: entra in questo gruppo, ho sentito un po' di telefonate, ho consigliato a questi signori di non mettere il numero. Ognuno poi può fare quello che vuole nella vita, cioè può anche farsi denunciare, eccetera. Ho consigliato a uno di questi signori di togliere il numero di Fede, nel senso che poi ti denunciano, ti portano in tribunale. Certo. Se io metto il numero. Solo questo. Ma comunque poi se ci segui dopo nel corso della trasmissione, magari esce fuori qualche sorpresa. Ciao Paolo, ciao. Ormai è tutto degradato ormai. Non me ne frega un cazzo. Giampiero Mughini è con noi. Giampiero, come andiamo? Buonasera, cari amici. Come andiamo? Ciao, come andiamo? Cerchiamo di andare. Allora, tu oggi hai sostenuto una cosa. La vera, come dire, il vero spartiacque oggi è tra chi lavora l'8 dicembre e chi non lavora. Spiegaci un po'. Sai, io faccio parte di quelli che se non lavorano non beccano nulla. E siccome devo pagare le bollette, le tasse e tutto il resto. Quindi devo lavorare. Invece c'è un comparto di italiani nel pubblico e nel privato, non c'è niente di male, così, che non solo non lavora oggi, prende un ponte, cuce all'8 dicembre altre giornate di riposo, eccetera. Detto in una parola povera, io considero le festività infrasettimanali, quelle che non hanno un particolare valore simbolico, una cialtronata da cancellare. Anch'io sono d'accordo su questo. Io penso che sì, ma lo stavano per fare tempo fa, poi come naturalmente no. Ci fu per estenderlo a tutti, anche a noi due, caro Giampiero, che siamo lavoratori autonomi. No, io non sono lavoratore autonomo, però sono d'accordo. Ma te ti pagano di più oggi, ad esempio? Sì, assolutamente sì, però non me ne frega niente, non è che lo faccio apposta. Capita durante la settimana e Giampiero, io e altri pochi sfigati veniamo a lavorare. No, però io sono per questa cosa qui. Anni fa qualcuno propose. Io sono per estendere a tutti invece. No, così di abolire. Tutti non lavorano. No, vabbè, ma tu sei uno di quelli che è diventato. Oggi tu non dovresti stare zitto e lavorare. Invece sei talmente imborghesito. Io vorrei starmene a casa come gli altri, in pancioller, a leggermi un libro. Stavo leggendo un libro sull'ISIS davanti al caminetto. Vengo qui a rompermi i coglioni, a sentire quattro miserabili che chiamano. Capirai che dice. Io che cosa devo fare? Giampiero, cosa devo fare io con questo signore? Poi, cosa preferisci fare? La cosa migliore che potresti fare è licenziarlo, così lui si può dedicare alle sue letture. Ma la cosa è incredibile, cioè, sto lì a casa, stavo con una tazza di tè bellissima. Ma certo. Ma scusa, rompermi i coglioni a sentire Giuseppe, quattro miserabili che chiamano, ma scusami, Massimo da Verona, Mauro da Mazza, uno che urla, l'altro grillino, che si vede roba pazzesca. Sì, però io ti segnalo che questo signore indirettamente, Giampiero lo sa benissimo, una piccola questo signore, quelli che tu hai elencato, in piccolissima parte, caro Davide, ti forniscono dei denari. Infatti sono qui, ma tu li mandi a fare in culo. Ma così, la mando a fare in culo, sì, perché ero a casa di Giovanni Benincasa. Ma chi se ne frega? Un pandoro buonissimo, sorseggiare del tè. Vengo ma licenzialo, qua. Dai, passa ai fatti. Basta. Giuseppe, dai l'esempio, passa ai fatti. Hai ragione, caro Giampiero. Spesso sono tentato. Poi spediscilo senza ricevuta di ritorno. Torno, certo. No, questo è capace pure che fa causa, capito? Ma che causa a chi? Cioè, a me stesso. Le cause di lavoro, che a me stesso, come per faccio? Mobbing, pari per mobbing. Ma quale mobbing? Sarebbe incredibile. Sentiamo un ascoltatore, ma sentiamo adesso c'è Giampiero, che ci dirà che cosa scrive. La sua fidanzata è una prostituta. Senti, no, tempo fa stavo dicendo adesso questa cosa della prostituta gliela chiedo, perché c'è stato il caso di un ascoltatore di ieri, caro Giampiero, te lo chiedo subito, lasciamo perdere questa cosa delle feste, perché tempo fa il governo, non mi ricordo quale, decise che per produrre di più noi dovevamo abolire un certo numero di feste all'anno. Io ne hanno abolite un paio e le altre le hanno rimesse. Sì, esatto, come al solito. C'è la festa di San Pietro e Paolo, è pazzesco. A Roma pazzesco. C'è ancora la festa di San Pietro e Paolo? È pazzesco. Una cosa incredibile, dai. Cioè, adesso oggi in un paese no, perché l'8 dicembre è ancora festa, per esempio? Cioè, oggi è, come tu sai, la festa cosiddetta dell'Immacolata Concezione, appunto. Detto con tutto il rispetto, appartiene sì alla storia del cattolicesimo, certo, eccetera. Però non è un evento della nazione, esatto, che si deve ripercuotere sulla nazione con tutte le difficoltà, perché ci sono quelli come Davide che sarebbero a bere il tè, sì, ma insomma c'è molta gente, sì, che ha bisogno dei servizi pubblici che non ci sono, non c'è dubbio. Insomma è molto difficoltoso oggi vivere. Ma l'otto è una piccola cosa, la mia colfa aveva tutto il diritto di non vivere, io onestamente, povero me, solo soletto, mi aiuta molto la mia colfa, lei è stata carina e mi ha regalato un'ora del suo tempo, però, ma aveva tutto il diritto di non venire. Sì, ma l'otto dice... il lavoro cosiddetto dipendente è talmente carico di privilegi, sì, che oggi non lo più nessuno assume, perché quando ci si chiede ma perché non assumono lavoro dipendente, eccetera, perché naturalmente con i tempi che corrono è un po' difficile insomma pagare 14 mesi mesi a chi ne lavora 11, o no? No, ma io sono d'accordo con te, sì. Ma io sono consapevole di essere un, assolutamente un privilegiato, non c'è dubbio, come lo sei stato tu a lungo, come siamo stati, cioè, è così, non c'è niente da fare. Però, dimmi tutto. Ieri c'è stato il caso di un ascoltatore che è intervenuto dicendo che si è fidanzato con una prostituta di un bordello svizzero. Però questo non c'entra con le vacanze. No, ecco, tu come vedi questa cosa qui? Cioè, nulla di speciale, ognuno fa della sua vita quello che vuole. No. Io, come sai, non intervengo mai sulle vite private degli altri. No, d'accordo. Beh, tu mettiamo, però il caso, cioè tu potresti sopportare una cosa di questo tipo? Cioè, l'idea. Beh, naturalmente la cosa è complicata, però ci sono complicatezze che fanno parte delle avventure e dei destini personali, assolutamente. Sì, però l'idea di stare con una che poi durante la giornata fa un certo mestiere, poi tu la vedi la sera, si mette a letto con te, dopo che magari durante la giornata. Beh, naturalmente la spiegazione in questi casi è molto semplice. La ragazza direbbe al suo fidanzato, anzi certamente dirà al suo fidanzato, che durante il lavoro lei a tutto pensa fuorché a quel signore che sta lì con lei, eccetera. Ora, se va bene al suo fidanzato, non vedo perché io debba mettere becco. No, ma assolutamente non lo farebbe lui, giustamente. Non metto becco, ma figuriamoci se metto becco. Solo che. Però mi pare che Gian Piero non si metterebbe mai nella condizione, ma giustamente neanch'io. Ma come fai a saperlo prima, Davide? No, mi pare tu di capire. Ma se ti invaghisci di una ragazza che lavora in un bordello svizzero, o anche cecoslovacco, quello che è, sai, non devi dire mai nulla prima che accada. No, ma certo, ma mi chiederebbe qualche che proverei a farle cambiare lavoro, non so come dirti. Ma non qualche essere così banale, Davide. Ma qualche problema, tesoro mio, ma sapere che la mia fidanzata, scusami, certo, è una troia, un po' che mi faccia la scenografa a Montecitorio, questo è evidente. Lui preferisce questo. Ma se la tua fidanzata facesse la giornalista, tu saresti contento? Moltissimo. Anche quello è molto pesante. Moltissimo, beh. Moltissimo. Non nel senso morale del testo. Anche quello. Anche quello ogni tanto può essere una rottura di balle da una fidanzata giornalista, è roba che non auguro al mio peggiore nemico. No, va bene, da qua questo è un altro. No, ma spesso poi le due cose coincidono, caro Giampiero. Cioè, nel senso, vabbè, la prostituzione, la prostituzione e il giornalismo, come dire, no? Ma non approfondiamo troppo. Questo no, credo. Allora, ragazzi, però io vi voglio fare leggere questa cosa qui: una nostra grande discussione, come tu sai, Giampiero, che ogni tanto ci ascolti negli ultimi giorni. Allora, la signora Roberta Orru mi segnalano sia una cantante, io non la conosco, signor Roberto Ru, scrive pubblicando il video di un piccolo animale, dopo vi dirò chi, anzi capirete subito chi è. Sei vegano se pensi che ogni vita sia preziosa. Era in fin di vita, si muoveva pochissimo, gli ho dato acqua e zucchero, ma ancora poca reazione. L'ho portata dentro in un barattolino, l'ho messa vicino alla stufa con un altro po' di acqua e tanto zucchero, e nel giro di 2 minuti si è ripresa totalmente. L'ho riportata fuori ed è volata molto in alto. Buona vita. Era una mosca. Guarda, Giampiero, non ce la posso fare. Questa discussione con te, perché io sono un uomo molto intelligente, quindi naturalmente non spacco la mela in due, da una parte c'è il male e da una parte c'è il bene, però in questa discussione che tu hai avviato, che naturalmente ho ascoltato più volte, eccetera, io non sono vegano. Però? Agli animali porto, anche se so che la vita, la natura, la storia è fatta da specie più forti che dominano specie più deboli, e non c'è dubbio che nella storia degli uomini, gli uomini più forti, più organizzati, eccetera, hanno, è come se dominato gli animali. Però sai, se io gli animali li amo moltissimo. Ma che c'entra amare gli animali col fatto di pensare che una, che uno debba dare da mangiare ad una mosca che non riesce a volare? Giampiero, dai. Perché siamo alla psicopatia, dai, su. Ma non puoi non dire che non siamo alla follia. Come questi qua che vogliono togliere il coniglio dalla tavola degli italiani. Ma sono un gruppo di squinternati, un gruppo di mezzi pazzi. Diciamo la verità, dai, fermo là, aspetta che ti ritorno da te, Allora, la pubblicità e varie soste sono più del 30% del tempo che passate a parlare. Ma che trasmissione è questa? La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Una mia amica qualche giorno fa, mi rivolgo a tutto il popolo della Zanzara, ma soprattutto a Parenzo e a Mughini, mi ha detto queste frasi. non dico il nome perché magari non le va di essere citata. Il sesso e il porno devono essere studiati e affrontati in modo scientifico, esattamente come nello stesso modo in cui si parla della politica e di altre cose. Capito, Parenzo? Non so se. Sì, sì, no, ma questo mi pare saggio. Poi un'altra cosa che riguarda la rivista Time, la rivista americana Time, che come sapete ogni anno fanno poi la copertina della, con il personaggio del 2015 di ogni anno. Dell'anno, diciamo sì. Hanno inserito in una lista iniziale, tra cui poi devono scegliere, anche al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Cioè il leader dell'ISIS. Beh, nel male sicuramente il personaggio. No, però è curiosa come cosa. Ci saranno sicuramente polemiche. Tu pensa se Time mettesse in prima pagina alla fine come personaggio dell'anno il capo dell'ISIS, il califfo. Beh, sarebbe, sarebbe straordinario. Da un certo punto di vista sarebbe anche giusto, Cioè di solito i personaggi dell'anno di Time non sono dei cattivi. Di solito non sono dei cattivi. Ecco, questo bisogna vedere, appunto. Io di solito poi non lo vengono. Lo storico non lo conosco, diciamo, il passato. Però in questo caso sarebbe anche corretto, giusto. Cioè il personaggio dell'anno nel bene e nel male, anzi sicuramente nel male. Nel male, indubbiamente. No, ma è il califfo. Cioè la persona che fa più parlare, cioè il terrore di questo califfo dell'ISIS. In tutto questo, alle Iene c'è stato anche Luciano Moggi ieri sera. Sentite, ha detto che da piccolo tifava Inter. Tifi ancora Juve? Sempre. Chi tifavi da bambino? Inter. Poi ho conosciuto i dirigenti e ho smesso di tifare. Parli di Moratti? Moratti soprattutto, sì. Dai, fai pace con Moratti. È lui che certe volte dice stupidaggini. Cioè da piccolo tifava Inter, poi la solita storia su Di Pietro che è tifoso della Juventus e gli chiese non so quanti biglietti. I politici ti chiedevano i biglietti gratis? Di Pietro, che fa tanto il santo, ha chiesto una volta 20 biglietti, una volta 30 perché c'aveva un gran corteo. È stato in sede 2 o 3 ore, poi dopo Calciopoli ha detto che non ci conosceva né a me né a Giraudo. Arbitri, puttane e Balotelli. A proposito di puttane, è vero che quando eri al Torino le mandavi in albergo agli arbitri? Quelli erano interpreti, erano professoressi di lingua. Vabbè, interpreti. A proposito di giocatori difficili, Balotelli? Io non lo prenderei nessuna squadra mia. Hai litigato con gli allenatori? Prima di litigarci li mandavo via. Hai imposto la formazione? Mai. Al massimo il giovedì dicevo, secondo me farei così. E qualcuno disobbediva? No. Qualcuno disobbediva? No. Le puttane erano interpreti. Beh, stupenda. Bello, questa sì, cosa, sì, meravigliosa. Capacità meravigliosa. Di mentire straordinaria. Beh, io penso che ancora, che praticamente Mughini pensi che consideri Moggi praticamente un califfo, una sorta di califfo assoluto, una divinità, o no? Una divinità, un sovrano in quel mestiere, un sovrano, un fuoriclasse in quel mestiere. Il Churchill del calcio. Però ti ripeto, poc'anzi io non so se... non so se mi ascoltavate, io non trovo bizzarro che Time metta al-Baghdadi. No, assolutamente. Lista. No, esatto. No. Insomma, ragazzi, ti dicevo, non so se mi ascoltavate, che fa nel 38-39 non avresti messo nella lista Hitler. Adolf Hitler. No, ma non c'è dubbio. Esatto. Di solito i personaggi che vengono messi su quella rivista come personaggi dell'anno sono sempre dei buoni, però sono dei personaggi molto visibili. E poi la bontà, come dicevamo prima, non è che stia in cielo. No, la bontà è frammista alla malvagità, alla delinquenza, alla criminalità, e se vuoi l'imbecillità è frammista a tutto. No, però in realtà mi segnalano, chiede a Moggi 30 biglietti e poi giustamente, come ha detto Luciano, poi dice io non lo conoscevo, è un imbecille punto e basta. E siccome questo succede continuamente con Bettino Craxi, successe su scala generale, come no, certo. Fino al giorno prima si inginocchiavano, il giorno dopo non lo conosceva nessuno. Dai ragazzi. Allora, comunque, ha ragione Giampiero quando dice, mi segnalano che in realtà Hitler fu uomo dell'anno per Time nel 38, Stalin nel 39 e nel 42. Però non so se in tempi recenti poi c'è stato qualcuno di così terribile. Ma purtroppo forse dai, Bin Laden, recenti, guarda. Siccome siamo entro forse a Bin una Laden, particolare se non ricordo mondiale. Male. Se non ricordo male forse Bin Laden. Laden, sì, forse Bin Laden. Senti, a proposito, siccome è roba ormai vecchia di una settimana, però ha fatto tanto scalpore per diversi giorni, caro Giampiero. Sì. Quel Pulcinella dato da eri presente anche tu come il sottoscritto. Assolutamente, ero a fianco di Enrico. Esatto, da Mentana a... È stata un'uscita assolutamente sgradevole. Sì. Può scappare, io glielo ho detto subito a Enrico, dico: ma che cosa dici? Ma non si dice a nessuno, un'uscita sgradevole. Razzista? Un po' razzista? Tutto... No, ma, vabbè. Come dici? Un po' razzista? No, gli è scappata, Enrico naturalmente non c'è niente di male, è molto appassionato per la sua squadra, c'era una discussione televisiva con uno che lui non conosceva, sì. E gli è scappato un Pulcinella di cui sono convinto che Enrico si sia pentito. E comunque c'era un atteggiamento in generale, io sono il direttore, capisco di qualcosa, tu non sei cazzo, da Marchese del Grillo, un atteggiamento... Da tifoso. C'era un atteggiamento da Marchese del Grillo nei confronti di Auriemma, questo bisogna dirlo, dai. Allora diciamola francamente, lui non sapeva chi fosse Auriemma. Beh, insomma, non... E quindi che non è molto No, non è un delitto, però non è nemmeno un delitto molto noto. Ti assicuro però che non bisogna caricare la cosa di significati che non ha. Un'uscita sgradevole può sfuggire. No, ma per carità, a me lo dici, non è quello il punto. No, il punto fondamentale è un altro, cioè il punto è che lui ha avuto un atteggiamento con Auriemma, che è un giornalista tifoso del Napoli, un atteggiamento, io sono, come dire, imparziale, tu sei tifoso, io so e tu non sei un cazzo, dai, un po' è così, dai Giampiero, io so. Ho capito quello che voi volete dire, ho capito quello che voi volete dire. No, io non credo assolutamente. Io accanto al reo reo non confesso e non ho avuto questa impressione. A Enrico è scappata un'espressione sgradevole. Io ogni tanto dico di me stesso che ho fatto una battutaccia. Quella era peggio che una battutaccia. Peggio che una battutaccia. I napoletani hanno parlato della maschera in fondo, su, e non parlano di calcio. Ma dai. Perdonami, che vuoi non è che questo sia il sapore di quell'espressione. Non come voleva dire tu sei una maschera. Esatto. Come dire sei un buffo, sei un guitto. Glielo aveva detto in senso negativo. E non è che sino a quel momento Auriemma avesse bestemmiato l'Inter, no, assolutamente. Senti, ma Trump come lo consideri? Un cretino? Uno che un vuole cazzone di proporzioni gigantesche. ecco, nella lista dei cazzoni lui insomma in uno dei primi tre posti ci va. E Vecchioni che dice che la Sicilia è una merda, un'isola di merda? Ha fatto benissimo. Io perché? L'ho detto non so quante volte, naturalmente l'ho detto in luoghi dove ha fatto benissimo, lo ha detto, appariva evidente, lo ha detto nel senso di un amore odio. Io in questi casi cito sempre Leonardo Sciascia che diceva: mi alzo delle mattine e penso della Sicilia peggio di quello che ne pensano la Liga Veneta. Leonardo Sciascia. E allora io ho detto più volte: la Sicilia è il luogo dove è sepolta mia madre, la odio. Però nel dire la odio naturalmente devi capire l'intensità di questo sentimento. Io sono nato lì è sepolta mia madre, però la guardi l'assemblea regionale siciliana e ti fa schifo. Che sentimenti puoi avere? Di odio, sì, oggettivamente di odio, di schifo, di odio. Dunque tu dici, capisci chi ama la Sicilia, poi guarda le schifezze che succedono. Ma naturale. Proprio perché la ami, la odi, perché è ridotta così. Questo dice, dai. Però tu vai, Giampiero, tu vai alla invitato dalla Università di Palermo a parlare di un libro. Davanti a quella platea dici: sì, io guardo le macchine in doppia fila, in tripla fila, che però ci stanno ovunque. Non solo quello, ha parlato anche di altre cose, per carità. Mi pare che abbia fatto un discorso. Sì, perdonami. Ha fatto un discorso, per carità, ha fatto un discorso, però non è che ha parlato, come dire, no? Anzi, però a ripensarci, non è stato neanche ipocrita, scusami, forse Giampiero sarà d'accordo. Dici... Anzi, ha scelto il contesto più adatto, non è che l'ha bravissimo, detto a Bergamo Alta, l'ha non detto lì. Certo. Cioè tu dici non è stato nemmeno ipocrita, non è stato. No, ha offerto i suoi sentimenti a un pubblico che aveva di fronte e che poteva ribattere, ma i suoi sentimenti mica erano quelli di un padano, erano quelli di un italiano che sente la Sicilia con dolore. Ma che diavolo? In Sicilia è nata la lingua italiana, porcaccia miseria. È nata la lingua italiana in Sicilia, poi la riprende Dante. E i siciliani hanno qualche responsabilità nella situazione adesso della Sicilia? Ciascun siciliano risponde di se stesso. Eh no, ma in generale, certo, il siciliano perché... risponde di se stesso. Certo, se c'è quella situazione lì, non è che avviene per caso. Che avviene per caso. Certi politici. Ognuno ci mette del suo. Ognuno ci mette del suo. A quanta sciatteria, disorganizzazione, evasione fiscale, eccetera, eccetera. E Crocetta. Al costume. E Crocetta che si fa fare le foto su al mare. Quello non lo trovo un dramma di proporzioni epocali, però Crocetta in costume da bagno non è sexy, ma a parte questo sì effettivamente una risposta. Voglio così dire, con quello che passa il convento, una foto in costume da bagno mi sembra, non so se è un peccato veniale, meno di questo. Sì, ha detto questa è la bellezza della Sicilia, il mare a dicembre. Ma non da farne un dramma, ma no, ma assolutamente. Però aspetta, che c'è una Giacomo da Lugano. Parenzo, ti ha sentito dire delle cose molto bene, e si è incazzato e ha chiamato, è il famoso fidanzato della prostituta. Siamo qua pronti, Giacomo, che hai da dire? Stefano. Oh, buonasera a tutti, innanzitutto. Dimmi, Giacomo, dimmi. Saluta Mughini, che pensa che tu sei normale, al contrario di Parenzo. Ma perché la persona normodotata pensa. Ma anche per me è normale. No, ma aspetta, però, Parenzo, tu che sei una persona estremamente normale. Aspetta, fammi finire. Ho detto che non lo farei io, ma tu sei normale, sicuro. Ma non per fare flusso alla James Joyce. Ti dicevo, tu che sei una persona estremamente colta, tu sai che Dulcinea del Toboso, la ragazza, quelle che frequentava, diciamo, Don Chisciotte, era una prostituta, come tu assolutamente, pensai. Assolutamente. Quindi adesso nella questo mondo molto, diciamo, molto aperto, ormai è normale, un ragazzo di 24 anni, una ragazza di 27 anni, chi se ne frega del lavoro. Anche la bella di giorno di Buñuel per quello, però il marito non lo sapeva, ma non importa, non è questo il tema. Io sono cornuto e fiero di essere cornuto. Eccolo, ma vista. Questo ti fa questo onore. Questo è interessante, fiero come di essere diceva, cornuto. Fiero se di ti piace cornuto. Essere cornuto, questo ti fa onore, però non è il mio, diciamo. Però benissimo, evviva che come tu sei cornuto, sono felice che tu sia felice. Come diceva poi datemi un paio di corna, vi solleverò il mondo. Detto ciò, la cosa fondamentale è capire che in questo mondo moderno non è chi se ne frega. Non dico che sia una cosa normale, ma lo fa di suo sposo. Però Giacomo, tu mi devi fare un piccolo regalo. Dimmi, la signora Julie, frequentatrice che Giampiero Mughini apprezzerebbe moltissimo. Ti assicuro, Giampiero, che è veramente una signorina da apprezzare nelle sue battezze. Ma non ho dubbi, ma le persone sono quelle che sono. Assolutamente. L'ultima cosa che mi importa. Ma... No, per dire. Giacomo, mi devi fare un regalo. Dimmi caro, ma sai cosa mi impressiona? Sì, dice sempre lui, dimmi caro. No, sì. Oltre che dimmi caro, che è molto gentile, che alle 20:12 lui è al telefono qui con noi mentre la sua fidanzata in questo momento sta lavorando, incredibile per me. Però, ma che ti frega, ma è normale, fa la prostituta, che cosa vuoi che faccia? Per carità. Allora Giacomo, mi porti una sera accanto a te, anche se parla in tedesco, ti procuro un traduttore in simultanea. Mi devi chiamare una sera, devi venire in trasmissione con la signorina Julie, ti prego, guarda, ti scongiuro. Io quello non penso che lei voglia venire, però ma che ti frega? Assicurare. Ma le dici la zanzara in tedesco, gli dici che è una trasmissione di Radio Maria, che ti frega? Ma no, adesso la assicuro, così mi manda a far culo direttamente se sento ma Radio no, Maria. No, ma che c'è? Dico no, che parla con Ratzinger. No, senti una cosa più intelligente. Con Razzi, no. Semmai. Razzi, che secondo me, se ravagniamo bene, c'è stato anche lui. Vabbè, no, allora che vuoi dire? Non ho capito. No, dicevo che secondo me, guarda, una volta limite posso, se proprio insisti, venire io a Milano, che sono sempre ma quello che me frega, Giacomo, io voglio Julie, che al telefono con Julie, ma dai, ma che ti frega? Dici con una radio italiana, tanto lei che gli frega, è tedesca. Beh, una volta te la passo, una volta che siamo in diretta te la passo. Ma solo per sentire la voce in tedesco di questa signorina meravigliosa. Sì. Una volta che sono con lei te la passo, non ti preoccupare. Vabbè, però volevo... Vabbè, basta, parenti. Sì, vabbè, ciao, ti saluto, basta, l'ha già sbugiardato. Ciao, Giampiero, io voglio capire, poi ti lascio, che ne pensi di questa storia della pornostar vergine? Ci credi a queste cose che vengono? No, certamente no, quello è roba, è marketing. È puro marketing, dai, su. È marketing, Giuseppe, si vive di marketing, metà delle cose che girano per l'atmosfera mediatica, eccetera, sono fesserie sesquipedali, ma anche il modo in cui era vestita la gente ieri che andava alla Scala, è marketing, perché poi vai sul giornale, più ti vesti da cafona più vai sul giornale. Cioè stai parlando della Santanchè vestita, da cafona, dici? Basta, io non ho detto niente. Vabbè, no, come no? Io non ho detto niente. Ma quel vestito là come? Non ho pronunciato alcun nome. Vabbè, lo pronuncio io però, adesso ma qui non è lo pronunci tu, te ne assumi tutta la responsabilità penale, civile e amministrativa. Ma scusa, hai detto, si va vestiti da cafoni, l'unico vestito che si è visto, oltre a quello la signora F. Ball, che però non era vestita in maniera molto eclatante, e quella signora Santanchè, ti riferiva a quello, assumiti la tua responsabilità. Se sto zitto, che ci posso fare? Ciao, saluti. Buona serata. Ciao. Bruci da... La Zanzara. Allora andiamo a Pistoia da Angelo, vai Angelo. Angelo. Pronto, ciao Cruciani. Ciao, ciao. dimmi. Senti, no, è una storia vecchia, ormai ti dico buon appetito. No, era per il discorso del prete di prima, di Paolo. Sì. E che mai fatto incazzare la mia donna? Perché? Se anche, ma cioè, da un certo punto di vista, anche secondo me, ha fatto un po' una puttanata, dai. Nel senso che il discorso del signor Paolo, prete Paolo, come si vuole definire, si può anche accettare da un certo punto di vista, dal punto di vista consumistico, però dal punto di vista che il presepe comunque da tantissime persone è ancora sentito come qualcosa di molto intimo, molto personale. Ma se lui non vuole mettere sto presepe nella sua chiesa, ma che ve ne fotte a voi? Cioè non è mica un obbligo per un prete mettere il presepe. Lui lo dice perché siccome è un obbligo. Allora Angelo, siccome è diventato, lui dice, siccome è diventato il simbolo per Salvini e per la Gelmini, che io non sopporto, che anzi lui praticamente li odia, sia Salvini che la Gelmini, io non voglio mettere il presepe. Tra l'altro lui dice, il presepe io non lo metto di solito, cioè non lo metto, negli ultimi anni ho messo il presepe un po' strano con il parto plurigemellare della Madonna, una cosa anche un po' blasfema, vabbè. Diciamo, no? Ok, però il fatto tuo di che mentre si stava sfogando incitarlo a tirar fuori, diciamo, il peggio, lo capisco dal punto di vista degli ascolti, però rispetto, colpisce la sensibilità di tante persone che non c'entra. Pazienza, se colpisce la sensibilità, non è che siamo qui per caso. Siamo qui per caso a fare la recita come vorrebbe Parenzo ogni giorno dell'Ave Maria, oppure a fare porta a porta. Da parte sua, ha capito il discorso, come nei partiti, se non vuole stare più in un partito, vada un altro. Certe cose lui dice, se non crede più in alcune cose, non attacchi casa tua, se ne vada dalla chiesa, oppure scelga un altro, quello che vuole, un'altra parrocchia. Ciao, fermo lì. Dopo che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. Sì, vi devo raccontare una storia incredibile. Ti ricordi, Parenzo, Daniela Martani? Sì, come no? Sai chi è, no? Martani. Ve lo riassumo. 42 anni, portati decisamente bene, una bella ragazza. Vabbè, ex, beh, no, importante, sempre importante. Hostess dell'Alitalia, ex hostess dell'Alitalia, cacciata dall'Alitalia. Vegana, aspetta, ma fammi prima raccontare le cose, mamma mia che fretta. Ex hostess dell'Alitalia, cacciata per avere partecipato al Grande Fratello 9, e dice poi di aver perso tutto per colpa di quel licenziamento, di non avere più lavoro, grandi difficoltà economiche, eccetera, eccetera. Nel frattempo è diventata vegana, va bene, ma non solo è diventata vegana, è diventata un ultra del veganesimo, una sorta di Pasdaran. Anche qui tutto bene, per carità, ci siamo confrontati a lungo su mille argomenti, una grande combattente del veganesimo. Cioè, sostanzialmente la Martani pensa che io, te, tutti quelli che mangiamo senza strafare, ma anche se mangiassimo tanta carne, chi se ne frega, ci considera degli assassini. La signora Martani è andata per lavoro a Cortina in questo fine settimana, e fino a qui sti cazzi, no? Benissimo. La risposta è sti cazzi, chi se ne frega. Scrive sul suo profilo Facebook, attenzione: sono a Cortina per lavoro, è un posto meraviglioso, la natura è impareggiabile, ma tutta questa bellezza purtroppo è rovinata dalla presenza delle persone. Uno dice, vabbè. Donne impellicciate dalla testa ai piedi, nonostante non faccia freddo, infatti non c'è la neve, però piccola precisazione, non è che per fare freddo ci deve essere per forza la neve, perché se non è nuvoloso, come dire, no? Per andare sotto lo zero e non nevicare, appunto, esatto. Però questo è un dettaglio meteorologico di cui non me ne frega nulla. No, l'ostentazione dell'effimero all'ennesima potenza. Altra osservazione, piccola parentesi, è Cortina, cioè non è andata... non so come dirti. Vabbè, una Cortina non è che è obbligata a mettersi la pelliccia. Comunque, no, anche però è andata a Cortina, cioè non è andata. Sì, ma... non so come dirti, a Venturina, in provincia di Livorno, là di Siena, dove era ieri il tizio. No, o a Ovindoli. O Ovindoli, esatto. Bellissimo, è andata a Cortina. Lo stesso, Oggi mi sono trovata a pranzo con gente che ha mangiato foie gras. cervo e altri orrori. Tra l'altro il cervo buonissimo. Foie gras a me non piace, per esempio, però foie gras io ogni volta che andavo a Strasburgo, no, per troppo grasso, appunto, il foie gras lo mangiavo e cervo una cosa e altri orrori. Cervo e altri orrori. Chiedo cervo. Ogni e altri orrori. Aspetta, aspetta. Chiedo ogni giorno all'energia dell'universo, di darmi la forza di sopportare tutto questo. Datemi un po' di supporto voi, per favore, senza mandare a fanculo Cortina intera. Quanto vorrei ci foste voi qui invece di questa gentaccia. Sta parlando dei vegani, dei signori vegani, che scrive in un gruppo di vegani. Poi pubblica una foto con una signora, con una donna, con degli stivali con la pelliccia sopra. Cortina, purtroppo, è anche questo, gli stivali con la pelliccia. Non ho parole, solo parolacce per cotanto orrore. Cioè gli stivali con la pelliccia. E fino a qui siamo al veganesimo, al nazi-veganesimo della signora Daniela Martani. Ovviamente il sindaco di Cortina gli è stato riferito al sindaco di questa cosa, si è un po' incazzato il signor sindaco, eh? Il sindaco di Cortina non è che può essere trattato male. Anche il sindaco. Sindaco che si chiama Franceschi si è leggermente incazzato ed ha chiamato la signora Martani. Siamo in possesso di questa telefonata, una telefonata segretissima. Sì, parlo con Daniela Martani? Sì. Sì, qua la segreteria del sindaco Franceschi, sindaco di Cortina. Le volevo passare il sindaco che voleva parlare con lei. Ah, sì. Ok, grazie, rimanga in attesa per favore. Pronto? Sì. Sì, buonasera, parlo con Daniela Martani. Sì. Guardi, io vengo subito al punto. L'ufficio stampa mi ha segnalato delle cose che lei ha scritto in Facebook e le dico che sono esterrefatto. Sono veramente allibito. Ma riguardo cosa, scusi? Guardi, io sono scandalizzato da come lei ha definito la gente di Cortina. Lei ha scritto qua, guardi, lei ha scritto che Cortina è rovinata dalla presenza delle persone e poi dice quanto vorrei ci foste, sto leggendo dal suo post, c'è scritto sì. Daniela Martani, ci foste voi qui invece di questa gentaccia. Lei non dovrebbe permettersi di scrivere quelle cose in Facebook. Ma io mi permetto di scrivere quello che mi pare. Oh, il sindaco riprova poi, eh. Sì. Lei non è propriamente educata, signora Martani, perché io le stavo dicendo una cosa, lei mi ha apostrofato male, mi ha chiuso il telefono in faccia. Così non si fa. Ma senta, ma come si permette di chiamarmi in un giorno di no, lei si è permessa di offendere la gente? Quello che mi pare. Noi siamo gente. No, ma non offendere le persone. Certo che lei fa quello che le pare, ma non offendere. La gente di Cortina è gente per bene. Ma lei ha letto il post adesso con quel motivo? Sì, sì, ce l'ho qua. Ce l'ho qua questo post, ce ne sono due. E le dico un'altra cosa. Mia moglie ha la pelliccia, è una persona per bene come per tutti no, gli abitanti. Come tutti quelli che indossano le pellicce, comunque. Cos'è una? Un'assassina come tutti quelli che indossano le pellicce. Ma io sono libera di pensarla come voglio. Lei è libera? Lei è libera di pensarla, ma non ha assolutamente il diritto di criticare e di offendere la gente di Cortina che io rappresento. Anzi, adesso farò anche un post sul mio blog e lo diffondo. Sa cosa le dico? Visto che a lei la gente di Cortina non piace, io la invito a tornarsene nella sua Roma e la considero una persona non gradita alla nostra meravigliosa Cortina e alla nostra meravigliosa gente, va bene? Io posso fare quello che voglio. Dovrebbe scusarsi. Ma non me ne frega niente. Voi in nome del popolo animalista vi permettete di dire qualsiasi cosa. La gente di Cortina è gente per bene. La vedo, sì, benissimo. La gente di Cortina è gente per bene, non si deve permettere di parlare male di noi. Tutti arricchiti spiegati che vanno in giro con le pellicce. Io posso dire quello che mi pare, forse lei non si no, non io non ho sentito bene, lei ha detto che siamo dei lei ha detto che siamo degli sfigati. Sindaco di quale fazione è? Destra o sinistra? Vabbè. Se Cortina e la gente di Cortina le fanno così schifo, se ne vada in un altro posto, non è gradita, che se fa, ne può andare le, che fa, mi fa controllare all'ingresso? Anche questo se è il caso. Ma lei è fuori, ma io adesso la denuncio. Brava, ha capito. Qua Qualche ora dopo la signora Martani scrive: questa persona con la foto è il sindaco di Cortina Franceschi. Il signore in questione mi ha telefonato oggi in un giorno di festa nazionale, urlando come un pazzo al telefono che io non mi posso permettere di scrivere su Facebook che Cortina, nonostante sia un posto paesaggisticamente incantevole, è rovinato da tutte queste donnette impellicciate che girovagano per la città, che girovagando in realtà ha scritto, vabbè. Evidentemente il primo cittadino di Cortina non ha una mazza da fare tutto il giorno, caro sindaco, prenditi il Lexton, che poi sarebbe il Lexotan, che non stai molto bene. Vabbè ragazzi, dai. Questa trasmissione è assolutamente geniale. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Consiglio a tutti gli ascoltatori: Zanzara e marijuana, Zanzara e marijuana. Torno alla Zanzara dopo non so quanto tempo, ormai ho perso il conto dei mesi, dei giorni, forse degli anni. Volevo dirti, sai che... Oddio, ma perché mi devi interrompere? Sai che prima che tu presenti ogni l'obbligo volta, non so ancora è una cosa incredibile, sia. Guarda. Sai che sul Sole 24 Ore di oggi, immagino che tu abbia invitato uno di questi due ospiti. No, non ho letto una mazza, no. Le analisi del sole, c'è questa rubrica qui, come le analisi della Zanzara sono le analisi del sole. C'è un pezzo molto bello del Monsignor Nunzio Galantino che ha scritto apposta, inizia così, guarda. Dimmi com'è. La richiesta del Sole 24 Ore mi raggiunge mentre da un paio di giorni sono in missione in Iraq, dice il signor Nunzio Galantino. Quindi si vede che Napoletano l'ha chiamato e gli ha detto a Galantino di scrivere una cosa. E sotto Nunzio Galantino fai presto. Le equazioni del perdono di Gianfranco Ravasi. Poi c'è il grande Remo Bodei. C'è tre firme di eccellenza straordinaria perché tu stai in questo modo stai vigliando per il culo l'azienda che ti dà anche dei soldi, anzi spero che tu abbia ma Galantino ispirato. Che gli ha detto scrivere ma non lo so, l'ha chiamato, ha detto tu sei Galantino. No, ma evidentemente immagino che tu abbia chiamato almeno una di queste tre firme. No, ti assicuro di no. In onore del giubileo abbiamo invitato Remo Bodei. In onore del giubileo abbiamo invitato dopo un sacco di tempo Valentina Nappi. Come stai? Sono vestita da Immacolata Concezione. Come sei vestita da Immacolata Concezione? Uno quando pensa a lei non pensa a quello, però comunque. Come fai a vedere le foto su Facebook? Cioè, come sei vestita? Io vado a vedermele subito. Ho partecipato a due flash mob qui a Napoli contro l'omofobia, adesso sono in sede Arcigay. Sì? E mi sono vestita da Madonna. La Vergine Maria. Beh, stupendo. Ma scusa, è sotto come sei vestita? Cioè, tutto nel regolare? Oppure... Ho il cappotto, sciarpa. Hai il cappotto, sciarpa. Cioè, ti sei vestita da Madonna, praticamente. Sì. Da Madonna. Diciamo che te il giubileo non ti colpisce molto, l'apertura del giubileo, bisogna dire. No, assolutamente. Vabbè, ma questo è legittimo. No, ma assolutamente, per carità. Ma scusa, hai fatto dei flash mob sull'omofobia perché tu ti batti contro l'omofobia, beh, certo, eccetera. Tu consideri il Vaticano una specie di presidio dell'omofobia, o sbaglio? Sì. Quello forse è l'ultimo dei problemi, tutti i problemi che ci porta il Vaticano. Dici l'ultimo dei problemi? Che prendiamo problemi il Vaticano, foto della signora allora. Il Vaticano Valentina, che problema ci porta? Scusa, Valentina. Ma ci regredisce sotto moltissimi aspetti. Cioè proprio il Vaticano è, se non ci fosse sarebbe meglio. Sì, decisamente. Io mi trovo quasi sempre d'accordo per la questione Nappi. C'è qualche problema, Parenzo? Tu dici? No, cioè, questo non, io sono. Cioè, se il Vaticano non ci fosse. Però le foto della signora Nappi. Beh, un'ovvietà. C'è un sacco di gente che è andata oggi al giubileo a vedere l'anno santo, l'apertura, eccetera. Però, devo dire che la signora Nappi, insomma, si mantiene sempre, no? Questa è che gente che soffre. Ah, tu Valentina dici la gente, Natti, aspetta, ecco, la gente che... si appende a qualcos'altro. Ah, tu dici gente che soffre, che e si appende alla Chiesa Cattolica, al Vaticano, eccetera. Cioè tutti quelli che vanno lì all'apertura della donna della che sì, poi no, razionalmente, cioè, ok, va bene anche credere in Dio, cioè in realtà no, però sì, ma perché proprio la Chiesa Cattolica con tutte le puttanate, le schifezze che ha fatto? Ma... dice, vabbè, è pur sempre santa, ho capito, ma lo dici tu. Sì, che beh, ne so io che effettivamente santo. Non vedo queste foto del flash mob sulla pagina ufficiale della signora Natti. Ancora le deve mettere, no, ha detto. Non, ancora le deve mettere. Vedo altro, diciamo, accettarle. Vedo altre situazioni, ma per carità. No, pare... assolutamente. Senti Valentina, ma da quanto sei tornata in Italia dagli Stati Uniti? Qualche giorno. Da qualche giorno, eh? Sì. Senti, ma di questa storia della violenza sessuale di quel famoso pornostar. Sì. Che dici? Che pensi? Ma è vero, ma io guarda, trovo... guarda, è una brutta situazione. Allora, secondo me lui è uno stronzo, Gentina, nel sì, senso che... Parenzo, stiamo parlando, scusa, riassumo... Mi piace mostrare la sua virilità, che poi è un ragazzo alto, un metro e una banana, non molto dotato. Beh, no, io ho quindi, visto molto dotato il signor James Dean. No, normale. No. Beh, è normale, ho visto da immagini, adesso, per carità. Certo, cioè, dopo mezz'oretta non sentivo più niente, però vabbè, questa è un'altra cioè, tu con James Dean dopo mezz'oretta non sentivi più niente? Cioè, è come se, sai... Secondo me alcuni di questi ragazzi, dato anche a causa di una certa cultura e del modo in cui alleviamo i maschi, sì, è come se dovessero compensare la mancanza di, non so, doti varie o chissà che cosa, con la dominazione. Ma quelli per uno star devono fare, non è che cosa fa... che devono buttare i paccheri anziché buttare l'uccello, è veramente fastidiosa. Ma te, però, a volte una gangbang ferma io un tizio e dice: senti, sento più le tue mani che il tuo pisello. E non è, cioè, ok, magari lo schiaffetto sarà la pecorina, ci sta il momento dell'azione. Sì, cioè, beh, certo, non c'è però dubbio. Se sento solo quello. Vabbè, cioè, facciamo una sessione di bondage. No, però io voglio capire una cosa. Tu vuoi, con questo ragionamento piuttosto sofisticato che riguarda il mondo del sesso, che deve essere analizzato, ripeto, dal punto di vista scientifico quasi per sempre, carità, soprattutto nel giorno del Giubileo, tu vuoi dire che questo James Dean, che è stato accusato di stupro da alcune allora, sue compagne, è uno stronzo? Moltissime stanno cavalcando. Allora, sì, io probabilmente. Allora, probabilmente quello che ha detto Stoi è vero. Però il fatto, la storia qual è? Moltissime probabilmente in quel momento, quando è capitato, sì, non lo consideravano tanto grave. Sì, sì. Anche perché io non capisco, tra l'altro, per quelle che dicono che l'abuso è accaduto sul set, dico, quando sei andata a prendere l'assegno, perché non hai parlato? Esatto, perché bravo, hai detto, ma bravo, quello sì, però cioè, ha un po' esagerato. Per cui molte approfittano, secondo te, di questo momento, sì, magari sì, per spillargli sì, dei sì, soldi, per sputtanarlo e spillargli dei soldi. No, allora... spillargli dei soldi non so, io spero che lui... ma adesso è stato praticamente bandito da ogni film, da ogni produzione, stiamo parlando di un famoso pornostar in America, è uno dei forse, più famosi. Forse non è un male, perché ho visto alcune sue scene dove effettivamente esagerava. Adesso consenso o meno, secondo me oltre certi limiti non si dovrebbe andare rispetto, cioè secondo te lui esagerava, secondo te esagerava, sì sì sì, secondo me esagerava, però tu dici addirittura però, stupro sì, mi sembra. Il problema è che comunque viviamo in un mondo dove stuprare una donna è peggio che ucciderla, sì, e sì, questa è la cosa che mi terrorizza, è che stiamo un po' tornando al medioevo, ormai si fanno i processi alle persone sui social media e non è carino, quindi James Dean, diciamo, il mio supporto fino a quando non sarà dichiarato colpevole. Provato colpevole. Per quanto mi sia, non mi sia molto simpatico, eccetera. Vabbè, quello è un altro discorso, non certo. È sessista. È sessista, addirittura. È sessista, sì. Ma nel porno facendo il porno è un altro discorso, va benissimo. No, ma nel porno se... no, ma nel porno questo il sessismo, il porno e il sessismo mi sembra una cosa un po' strana. Comunque vabbè, lasciamo perdere. Io voglio chiederti una cosa. Avanza la Le Pen, che non è proprio il pen che ti piace a te, è una battutaccia, però ci può pure stare. Avanza la Le Pen. Aspetta, in francese si dice la B. La bit, è vero, sei molto esperta. La bit, è vero, la bit. E la chat. Senti, avanza la Le Pen, che te ne sembra di questa Le Pen? Sei tornata proprio quando vince la Le Pen. Ti fa schifo la signora Le Pen? No, mi fa schifo, sì. Ti fa schifo, eh? Ti fa schifo. È tutto molto triste, guarda, non... È triste, molto triste. È tutto molto triste. Molto triste, molto. Sono contenta di tornare, però allo stesso tempo voglio ritornarmi, perché almeno lavoro e sono contenta. Ah, e che pensi della Le Pen? Tutto il male possibile, quello che disse Madonna, adesso non mi ricordo che disse Madonna della Le Pen. No, vabbè, al di là della Le Pen è il fenomeno, poi Non che... Ragazzi, è complicato. E lo so che è complicato. Lo chiedete a me con tutti i chiamati. No, vabbè, ma tu non è che sei una pornostar qualunque, sei una che ha anche delle sue, no, delle sue idee, eccetera. Visioni anche. Le tue visioni del mondo. Cioè... Sì, però mi sembra chiaro che alcuni fenomeni vadano analizzati fermandosi un attimino. Adesso sono, mi prendete un po' la spesa. Ma al di là di questo... Ma Salvini ti sta sempre sulle palle? È triste la reazione del popolo francese. E perché è triste la reazione del popolo francese? Che sì, dovrebbero fare? Ma sì, perché non è di certo facendo i razzisti e i nazionalisti che si risolvono i problemi di terrorismo. Per cui Le Pen razzista e nazionalista. Tant'è che gli americani così per controllati e bla bla bla hanno avuto un attacco terroristico. Forse l'attacco terroristico più cretino della storia degli attacchi. Beh, cretino, insomma. Dai, l'attacco a... Che cretino, in che senso? La, no? la casa, no, cos'era? Sì, quello dell'altro giorno. Sto scordando l'italiano. Sì, quello che è stato a San Bernardino. A San Bernardino, perché cretino? Beh, attaccare, cos'è, una casa dei disabili? Sì, non mi ricordo. No, una casa. Vabbè, comunque, sì, attaccare i disabili, 12 persone. Dai, fa un po' ridere. Senti, io voglio capire una cosa. Ma l'11 settembre è stata una cosa un po' spettacolare. Beh, spettacolare, insomma, adesso. Sì, senti, ma molti dicono che ci sono varie testimonianze in queste settimane che si può arrivare a essere dipendenti dal porno, cioè tu rovini la vita a un sacco di gente. Cioè, dicono che poi hanno la vita rovinata. Sempre con queste. Allora, statisticamente no. Beh, allora dai, dato che ci sono molti obesi, togliamo che di mezzo anche il cibo. Togliamo lo zucchero dai supermercati. Ma no, nessuno vuole togliere il porno, per carità. Senti, invece la storia della pornostar vergine, ci credi? Che tristezza. Cioè, tutta roba di marketing inesistente, non può essere... No, vabbè, ma di là, che tristezza. Io, guarda, odio... Adesso stanno andando moltissimo di moda queste nuove verginità, per cui fanno questi DVD con la scritta prima orale, prima DP, cioè prima doppia penetrazione. Sì, ho capito. Addirittura adesso le MILF fanno... Vabbè, ma è... Con il primo si è sempre... Il fascino della MILF è proprio... Ma c'è sempre... esperienza, ne ha presi tanti di piselli. Ma sei sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, è normale. Più il mondo si specializza, più il porno si specializza No, è molto... Questo è perché non si ha piacere del sesso in sé. Ho capito, però amica mia, tu pure sei... l'idea che sai, l'ho fatto a pecora, l'ho fatto così... Ma tu sei specializzata, pure tu sei specializzata in alcune cose. No, non è che sono specializzata, ho... Nelle gangbang, amica mia. Certo. Senti, ma a proposito, ma... Però non vendo nuove virginità. Senti, a proposito... Mi sono fatta fare una copertina parodia... Sì. In cui ho scritto prima volta nell'orecchio. Come? Addirittura per prendere per il culo, per prendere per il culo questi qua. Senti, ma gli arabi no? E il sesso, ci sono pornostar arabe? Mi sembra una molto famosa, no? L'abbiamo citata ogni tanto. Non ricordo. Mia Khalifa, mi sembra. Sì, marocchina. Esatto. La conosci? Eppure, no, ma almeno non ho avuto il piacere di... Eppure minacciata, tra l'altro. Eppure minacciata. Sì, ho letto, vabbè. Ma esistono le pornostar vegane? Il pubblico le minacce che ricevo io quotidianamente via mail. Che minacce ricevi? Ma di tutti i tipi. Perché? Perché? Ma che ne so, sparo sui coglioni forse. Ma perché? Perché parli male di Berlusconi, parli male di Salvini? Perché parli male di Salvini? Ma no, Berlusconi danno semplicemente fastidio alle troie. Perché picchi gay? Che motivo c'è di picchiare un gay? Così. Così, cioè, vabbè, le troie, mica ti definisci una troia tu. Sì, certo che sono fiere. Cioè, sei fiera di essere troia? Sì. Sei fiera? Veramente. Sì, sei fiera di essere troia? Vabbè, ognuno, che vuoi fare? Tu sei fiera di essere parente? Donna sessualmente libera, in questo senso. Beh, insomma, è un po' diverso, donna sessualmente libera. È consapevole. È consapevole, vabbè. Senti, se avessi di fronte signor Salvini, di fronte, cosa faresti di fronte? A un metro da te? Una puzza. Una puzza? Una scorreggia. Cioè, gli scorreggeresti il signor Gasparri? Non lo so, ci devo pensare. Ci devi pensare, eh? Forse la stessa cosa. La stessa cosa. Tra 10 anni come ti immagini? Ancora a trombare sui set? Aspetta, tra 10 anni o 35 anni. Ancora come ti immagini? Ancora sui set? Vediamo dove mi mettono, che categoria. Comunque sempre sul set porno, sui set porno. Sì, sì. Vabbè. Finché riesco a fare su e giù con le gambe, vi vedrete. Devono ammazzarmi, allora smetto. Hai capito? Ciao, ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, dobbiamo finire. Giacomo da Torino, Gino dalla provincia di Genova. Che poi Gino, amico mio, dopo quanto tempo hai chiamato? Gino. Ascolta. Dimmi, caro, il cugino di Mollica, presunto cugino di Mollica. Sono. Dimmi, ecco, amico, quel dimmi. Coglione lì di Roma, da Roma, che ride. Come si permette di dire così ai radioascoltatori? Comunque ho un sacco di cose da. Quando mi richiami, sì. Domani sera? Domani ti chiamo, eh? No, fatti richiamare adesso. Io vado a casa a mangiare. Cruciani ha tempo da perdere. Bravo, no, io devo andare alla Gazzetta TV. No, no, com'è la Gazzetta? Parla con Gino, scusa, no, ascoltatore. Ma come ci permetti? Ma domani? No, Gino, chiamano. Che volevi raccontare? Mandare a fare in culo Parenzo perché tratta male gli ascoltatori e basta? Anche, no, no, poi le voglio, signor Beppe, le voglio dire, signor voglio Beppe. Diventare io la sua partita IVA dalla Liguria e sì. Ho un sacco di cose da raccontare, anche lì da Milano. Idea. È che un'ottima devi idea, fare? Non ho capito 3, perché. 4, sì. Numero di Cruciani, guarda, così lo mandi lo via quello lì che non vale niente. No, ma ha ragione il signor, il cosiddetto cugino di Mollica, è ottimo. Presunto. No, no, perché presunto? Gino, ci sentiamo domani, ciao. Cruciani, sai che c'è? Non hanno capito che esiste il popolo della zanzara e siamo tantissimi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Radio 24. La passione si sente.